Risalve. È presto detto, quello che noi essenzialmente sosteniamo è che noi ci troviamo in un monopolio radicale, prendendo a prestito una definizione che Ivan Illich fa, per esempio, della nostra professione medica nazionale. Vale a dire, qual è la differenza tra un monopolio radicale e un monopolio comune? Monopolio comune è: puoi bere solo Coca-Cola o Pepsi. Un monopolio radicale è: se non bevi Coca-Cola non hai accesso ai tuoi diritti fondamentali. La tecnologia digitale è arrivata a questo livello qui. Noi non possiamo scientemente scegliere se usare o no la tecnologia digitale. Siamo obbligati a farlo. Se noi non abbiamo lo speed, se noi non abbiamo un giorno molto vicino, peraltro, l'identità digitale, noi non potremo. C'è una parte del primo documentario, con i 4 minuti, che a volte pensiamo di inserire, quando Israele. Adesso stendiamo un attimo il giudizio sulla cosa, cerchiamo di rimanere sul tema tecnologia digitale, e credetemi, è difficile anche per me. Quando Israele deve comunicare le zone che verranno bombardate alla popolazione civile, cercando di segnalare alla popolazione quali sono le aree sicure, a volte butta dei volantini con dei QR code dagli aerei. Significa che se tu non hai un cellulare funzionante con una fotocamera in grado di interpretare questo QR code, tu non hai la mappa per raggiungere i posti sicuri. Ora, ripeto, lasciamo perdere che poi non sono nemmeno posti sicuri, perché l'entità sionista non gliene frega un cazzo di dire dove, anzi, ha tutto l'interesse di concentrare quella popolazione, ma ripeto, sospendiamo questa analisi qui. Questo significa monopolio radicale. Ora, io vi posso parlare in brevissimo, ovviamente, delle città che abbiamo frequentato, e soprattutto della nostra, Bologna, che, ahimè, è un esempio molto molto sviluppato e molto chiaro di come funziona una smart city. In soldoni, perché alla fine dobbiamo anche imparare a semplificare molto, quando parliamo, soprattutto con altre persone, noi dobbiamo avere un linguaggio molto comprensibile e molto diretto. Una smart city essenzialmente è una città, come diceva Betta all'inizio, che deve andare verso una transazione digitale per l'ottimizzazione ambientale, per l'ottimizzazione dei servizi, eccetera. Questo deve passare attraverso la digitalizzazione, vale a dire che i cittadini della città devono diventare delle banche dati ambulanti che il potere, attraverso sensori, internet delle cose e anche altri dispositivi, tra cui anche quelli abitativi, di cui poi vi faccio un piccolo accenno, servono a raccogliere dati. Questi dati attraverso il 5G, perché il famoso 5G non è altro che la banda con cui vengono trasmessi i dati ai supercomputer e ai data center. Bologna, noi abbiamo il supercomputer Leonardo. Il supercomputer Leonardo, che è nato, è una cosa abbastanza, una mostruosità abbastanza recente, per la quale sono stati già spesi quasi 3 miliardi solo per accenderlo, e che ultimamente è stato potenziato con un supercomputer quantistico. Ha il compito, quel supercomputer bolognese, di creare il gemello digitale della città di Bologna. Il gemello digitale della città di Bologna altro non è che una ricostruzione in scala digitale della città, compresi i flussi, sia di traffico sia umani. Vale a dire che noi abbiamo un supercomputer che è stato già nutrito e si nutrirà sempre di più anche dei miei spostamenti. Io esco di casa, quel supercomputer lo sa. Quante volte passo in quella strada? Mi sono fermato meno al semaforo? Qual è la mia velocità media quando sono in auto? Quali posti frequento? Quali persone frequento? Tutto questo viene ricostruito dal gemello digitale. E qua arriviamo alla prima apoteosi del sistema della smart city, che è quello per il quale il gemello digitale prenderà decisioni politiche per la città. Vi faccio un esempio. A Bologna ci sono due torri: la torre degli Asinelli, alta e dritta, la torre Garisenda, la sorellina, bassa, un po' storta, un po' come la torre di Pisa. Ci sono dei problemi, infatti, cadono detriti. non si sa se abbatterla o meno. Chi è che deciderà le sorti della Torre Calisenda? È stato già ampiamente discusso dalla regione, dal comune e dal consorzio Cineca, che è quello interuniversitario che gestisce questo supercomputer, dal gemello digitale. Il che già potrebbe farvi orrore, ma andiamo avanti. Il supercomputer Leonardo, accordo di dicembre 2024, gestito, ripeto, da Cineca, questo consorzio interuniversitario, ha fatto un accordo con niente di meno per Leonardo S.p.A. Quindi con una società d'armi, interessatissima ovviamente a tutti i conflitti attualmente in corso. Ergo, il gemello digitale, che è controllato anche da società belliche, deciderà gli interventi architettonici dei beni pubblici delle nostre città. Se ancora non è sufficiente per raccontare l'assurdo verso cui stiamo andando, nel quale già mi pare di capire bandiere, stemmi con i quali noi siamo perfettamente in linea, già lo Stato non ci è mai piaciuto neanche. Ma qua stiamo parlando del fatto che non è manco lo Stato a decidere la roba. Qua stiamo parlando di società private che speculano su qualsiasi schifo, abbiamo visto anche in questo documentario, che dovrebbero, per la nostra sicurezza, per l'ottimizzazione dei nostri servizi e per l'ambiente, prendere delle decisioni politiche. E qua si arriva a tanti aspetti che ovviamente non possiamo discutere qui perché il discorso è ampio e vi spingo però ad andare a fare delle ricerche. Faccio l'esempio di Napoli, io sono napoletano, anche se vivo a Bologna, quindi quando sono andato a Napoli per me è una questione personale. A Napoli non è facile fare come Bologna un affresco preciso della Smart City, perché a Napoli ovviamente avviene in tutte le città in modo diverso, a Napoli particolarmente in modo diverso. Per fare un quadro della Smart City napoletana ho dovuto studiare il piano regolatore, perché era lì la chiave. Noi sappiamo una cosa: San Giovanni a Teduccio, la parte est e la parte ovest di Napoli, Bagnoli, San Giovanni a Teduccio, barra Ponticelli, aree periferiche che sono state peraltro già cannibalizzate dall'industria, la pesca per esempio di Bagnoli, Bagnoli è sempre stato un comune peschereccio, praticamente la pesca è quasi sospesa, abbiamo un'industrializzazione selvaggia, in quelle zone sono state sviluppate grandi infrastrutture tecnologiche. Per esempio, uno degli altri supercomputer di questa nazione, perché quello di Bologna è quasi il numero uno, se la batte, se non mi sbaglio, con quello di Trento o giù di lì. Il terzo, sicuramente importantissimo a livello strategico, è quello di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. Quindi non stiamo più parlando di nord. Quando abbiamo iniziato questo tipo anche di ricerche, vedevamo che era molto concentrato a nord, adesso non più. Ora, il piano regolatore di Napoli che cosa fa? Quando la popolazione si è accorta, e questo è un fatto che riguarda anche Roma naturalmente, che la turistificazione sta svuotando di fatto il centro storico della città, e non è un caso secondo me quando andiamo a vedere Gerusalemme Est, che viene, scusate, Hebron, che viene svuotata dall'interno, quindi i palestinesi devono andare verso le periferie, il centro deve rimanere a disposizione della colonia israeliana. Napoli, nel piano regolatore c'è scritto dal sindaco che è una risorsa svuotare il centro storico, perché possiamo sfruttare le aree non utilizzate nella città, quindi la zona est, quindi Bagnoli, quindi San Giovanni a Teduccio, dove abbiamo delle infrastrutture di controllo già potenziate. Quindi, punto numero uno, spostiamo la gente nelle periferie, nelle quali il controllo è già molto radicale. È inutile dire che noi abbiamo avuto le 4 giornate di Napoli, cioè i napoletani hanno preso a calcio il culo i nazisti, c'è un motivo, non sono solo i napoletani, è il modo in cui è fatto il centro storico di Napoli. Quindi, prima di tutto, tu devi svuotare un centro storico nel quale è difficilissimo fare dei controlli, metti gli abitanti in periferia. Il secondo, ovviamente, è quello di attirare investimenti di holding straniere, soprattutto nell'ambito digitale. Vale a dire che tu quindi stai facendo della tua città, non stai ottimizzando la tua città, non stai facendo in modo che la tua città sia migliore, che la qualità della vita sia veramente migliore. Tu stai facendo in modo che le multinazionali trovino un campo apertissimo, non regolato, anzi, regolato quanto basta per trovare il cavillo in tutte le le cose che si fanno, noi abbiamo solo interventi verticistici dall'alto. Tutte i grandi complessi che dovrebbero decidere il livello dell'inquinamento, la qualità dell'aria, tutta questa roba qua, sempre nella stessa famiglia, sono lo Shift Project, per farne uno, che è quello che dovrebbe investigare sull'inquinamento atmosferico dovuto per esempio all'inquinamento di aerei, eccetera. Non importa niente che si continuino ad usare gli idrocarburi, non importa niente se si continua a consumare acqua. Quello che importa è che le emissioni di CO2 siano come vogliono loro. E qua arriviamo all'aspetto fondamentale, non voglio essere troppo lungo, anche No, perché no, fa un po' no, no, no. caldo. A livello ambientale, voi dovete tenere presente una cosa fondamentale, che la maggior parte, infatti abbiamo avuto spesso dei confronti su questo, le tecnologie digitali possono essere utilizzate da noi, possono essere una risorsa con la quale noi, di cui ci riappropriamo e le utilizziamo a nostro vantaggio? Non lo so, io però faccio presente che la tecnologia digitale è già previsto che aumenterà entro il 2030 il bisogno di energia, facendo salire la necessità di energia al 160% di quello che già abbiamo. In soldoni, entro il 2030 dobbiamo consumare quanto una seconda Spagna in più in Europa. Punto numero uno. Punto numero due, non c'è questa energia. Si parla di tornare al nucleare per questo. Terzo, come si fanno i materiali dei microchip di qualsiasi cosa a partire dai cellulari che abbiamo in tasca? Si depredano territorio perché questi microchip sono fatti di terre rare, ittrio, cerio, tantissima altra roba che peraltro si trova in zone specifiche della terra nelle quali uno facciamo la guerra, due la Mongolia. Il 50% per il momento delle terre rare usata per questa tecnologia digitale viene dalla Mongolia. La Mongolia adesso ha zone è radioattiva. Perché ovviamente l'estrattivismo di questo materiale fa in modo che tu la terra non solo la distruggi, ma non è solo nemmeno l'estrazione, quanto la raffinazione dei materiali. Perché tu non vuoi tutti i materiali che estrai dalla terra, li vuoi separare. E la separazione dei materiali richiede energia. Quindi è un ciclo a perdere. È un mostro che non riusciremo mai ad alimentare, e questo è solo per l'ambiente. E le smart city nascevano per fare in modo che i consumi fossero controllati. Per carità, non è solo un problema di disciplinamento sociale, che devo decidere io quanto consumi tu, quanta acqua bevi tu, quante volte esci di casa, se accendi o meno il termosifone a casa tua. Oltre a essere una questione di disciplinamento, è una questione di mero mercato. Hanno trovato una nuova risorsa, adesso la vogliono vendere, vogliono portare avanti questo progetto fino alla fine delle risorse, perché questo fa il capitalismo. E questo è solo a livello ambientale. Non parliamo poi degli impatti a livello sociale che ha questa cosa. E qua veniamo a quello che vi accennavo prima, il fatto che l'urbanistica delle città cambia per via delle smart city. Pensate soltanto che adesso i protocolli che abbiamo, i gemellaggi che ci sono tra le città, sono quasi tutte con città israeliane, a livello urbanistico. C'è un accordo tra Milano e Tel Aviv, specificamente per la trasformazione urbana della città di Milano. Deve essere molto simile all'idea che gli israeliani hanno di città Milano. Torino. Hanno appena concluso il progetto Smart City Betlemme. Cioè noi da Torino abbiamo esportato le tecnologie, i saperi e le ricerche per trasformare Betlemme in una Smart City come se avessero bisogno di noi. E i gemellaggi sono stranissimi. Il Politecnico di Torino, il comune di Padula, provincia di Salerno. Cioè che voi, passando attraverso il supercomputer, ovviamente, di San Giovanni a Teduccio, queste sono le cose davanti alle quali siamo. Veniamo all'urbanizzazione rapidamente. Noi abbiamo vari casi. La tessera a punti non è una cosa diversa dalla smart city. Esempio di Fidenza. Mi pare era o settembre o marzo del 2023, la giunta di Fidenza decide che le case popolari vengono date soltanto attraverso l'attribuzione di una tessera a bravo cittadino. Tu hai 50 punti su questa tessera. Se perdi questi 50 punti, perdi la casa popolare. Perdi 25 punti se inviti a casa tua una persona estranea al nucleo familiare senza comunicarlo al comune. Perdi 10 punti se nutri i piccioni nel cortile del palazzo. Perdi 20 punti se fai il barbecue sul balcone. Questa è Fidenza. Bologna, marzo di quest'anno. 10 case popolari al bando. Gli requisiti richiesti per avere la casa popolare sono a dimostrare di avere almeno 2 anni di conclamato volontariato presso associazioni ambientaliste. E tu mi devi dire, se c'è una casa popolare, evidentemente non sei ricco, quindi avere tutto questo tempo da dedicare a associazioni ambientaliste decise dal comune, non so quanto sia fattibile, eccetera. Oppure devi aver militato presso delle aziende che hanno dei parametri chiamati ESG. Purtroppo il discorso su questo è molto lungo, è uno dei discorsi che secondo me bisogna approfondire poi più in là col tempo. I parametri ESG sono delle cose importanti. Già dal 2016 le aziende hanno dei protocolli per i quali loro devono avere determinati parametri, per esempio di inclusione, tutte le chiacchiere, tutto il politically correct che il sistema dall'alto verticisticamente ci cala sulla testa, i parametri ambientali, le vicinanze che hai con questo o quel personaggio politico, simpatie, cosa pubblichi su Facebook, tutta una serie di parametri che ti rendono etico. Quindi stiamo entrando in questa zona grigia nella quale sono i parametri delle aziende che nobilitano l'uomo, che rendono etica una persona. Che cosa ha fatto Fabrizio Guerra, io, ieri? Cosa dico in questa assemblea oggi, eccetera? Tutta questa roba mi rende meritevole dei parametri ESG? No, quindi io non potrò accedere un giorno, non molto lontano, a una serie di cose. Se continuiamo a far sì che queste società, che tutte queste industrie private, in complici con lo Stato, come dicevo prima, con questo sistema di sviluppo a tripla elica, nella quale noi abbiamo università, industria e governo che si intrecciano tra di loro in questo partenariato pubblico-privato stranissimo, complessissimo e molto molto perverso da tanti punti di vista. Quindi, per concludere la questione, sperando di lanciare ovviamente lasciare il dibattito aperto, noi ci siamo confrontati con tante città, come vi dicevo, la tecnologia può essere usata da noi per bene. Dobbiamo soddisfarcene, questo secondo me è uno dei punti sui quali dobbiamo parlare, perché anche se noi diciamo effettivamente dobbiamo abbandonare la tecnologia, vi faccio soltanto l'esempio del fatto che quando noi parliamo di capitalismo continuiamo a sognare di liberarci del capitalismo, giusto? Sembra possibile, pure nessuno di noi è nato in una società capitalistica. Se noi diciamo ci dobbiamo liberare della tecnologia digitale, tutti quanti dicono è impossibile, ci siamo dentro solo da 10 anni. Siamo tutti quanti nati senza Facebook, senza tutti questi social, pensiamo sia impossibile. Ah, qualcosa non va, signori. Cioè, qua bisogna riflettere su questa storia. C'è una guerra cognitiva in corso bella potente per convincerci di un monopolio radicale, per convincerci che noi non possiamo vivere senza questo tipo di risorse. Un'altra sono i compagni, ma questo ne parlavamo anche con te, anzi, se vuoi integrare tu. Puoi integrare questa No, cosa. dopo passo. Molti compagni, per esempio, non vedono la trasformazione del capitalismo che è quella di cui stiamo parlando adesso. La tecnologia digitale a Milano, compagni insomma anche di spessore, ci hanno per esempio detto: ma comunque, secondo noi il problema dei palestinesi non è la violazione della privacy. Porca puttana, non è vero per noi il problema della privacy, anche se non la sottovaluterei dal momento in cui vogliamo anche organizzarci per resistere a tutto questo, forse la privacy un po' ci serve, ma fosse solo un problema di privacy, qua si parla di una trasformazione dell'economia, come diceva Betta, stiamo parlando del fatto che noi siamo merce da tanti punti di vista, no? L'estrattivismo che fanno dei nostri dati è merce. Si converte in controllo sociale, si converte in guerra esterna, si fanno delle prove. Cioè, a Trento, non so se avete sentito, no, che il garante della privacy ha bacchettato il comune di Trento perché il comune di Trento aveva messo microfoni nelle piazze, eccetera. Sono usciti fuori documenti della NATO. Quei microfoni non servivano ad altro se non a fare delle sperimentazioni militari sulla città di Trento, perché il drone non lo vedi arrivare, lo senti arrivare. E quindi avevano installato microfoni, garante della privacy. Ogni tanto questa roba qua tira fuori la testa, dice questa cosa non va, dovremmo farne a meno, eccetera. Ovviamente chiudono a Trento, l'aprono a Venezia, e guarda. Già alla fine questa è la situazione in cui siamo. A Venezia c'è stato il contributo della sperimentazione e il contributo d'accesso. Ovviamente tutti i giornali titolavano si paga per entrare a Venezia. Sì, che cosa si paga? 10 euro? Facciamo una tassa di soggiorno allucinante, 10 euro. Ma tu paghi per entrare a Venezia con i tuoi dati. Tu per avere l'esenzione dovevi dire a casa di chi andavi. Perché andavi a Venezia? Stiamo scherzando, ragazzi. E qua si parla già del fatto che i centri storici delle città, altri devono diventare così, il centro di Firenze, il centro di Roma. Cos'è questa ZTL? Che sono 260.000 metri quadri di ZTL? È una città, questa ZTL. Secondo voi ci faranno entrare liberamente quando l'avranno progettata tutta quanta? L'avranno messa pienamente a regime? Avranno controllato tutto? Si parla già di smart control room a Roma. E quella di Venezia, che è la più famosa perché è quella più completa. A Venezia ci sono circa 900 telecamere, parte delle quali biometriche, cioè il riconoscimento facciale, è illegale, lo fanno lo stesso. Che gliene fotte? La legge non esiste. Non è mai stato un problema il fatto di violare o meno la legge dello Stato. Qual è stato? Di che cosa? Quelle telecamere sono tutte collegate nella Smart Control Room di Venezia, dalla quale riescono a triangolare la vostra posizione attraverso le celle telefoniche. Per entrare a Venezia, tu il cellulare lo devi avere per forza, perché devi avere il QR code per entrare a Venezia. Quindi tu sei obbligato ad avere il cellulare per entrare a Venezia, perché loro si devono agganciare alla cella telefonica, devono guardarti con la videocamera, devono sentirti con il microfono, devono sapere sulla carta attraverso l'autocertificazione a casa di chi vai. Perché? Che cosa hai detto? Devi andare dal proctologo, lo devi dire. Devi andare con la tua amante, lo devi dire. O se non lo dici, cazzo, che succede qualcosa di grave se non hai detto la verità sui cazzacci tuoi. Questa è la situazione che noi abbiamo davanti, ed è una situazione possibile soltanto attraverso la tecnologia digitale. Ecco, mi sono dilungato veramente assai. Grazie. Benissimo, io prima di dare via il dibattito.